电话的姐姐蛮苦啊。Hola chicos。 Ciao Gianni. ti provo a attaccare il mio, Valerio. Anche il mio fa così. Da 4 watt a 600 watt quanto fa? Già lo so, però tu sei vicino e non me ne accorgo, me ne accorgo a casa. Me ne accorgo. Qua lui è lontano, me ne ha bisogno un bel. Chiappa. Va bene, dai. Continuate. Non siamo in forma. Che succede? Ora un paio di giorni c'ho capogiro, nausea, non so se qualche cazzo di virus o qualche sintomo influenzale. Capogiro può essere da artrosi cervicale. Infatti la cervicale sto prendendo delle pastiglie che mi ha dato il medico. Ho sudato, ogni volta mi fa così. Metto a tagliare erba, sciuro, poi mi siedo, a birretta, qui là, e non mangio con un montone in garraccio. La corrente che fa male, mia, queste cose, perché non ci sia corrente? Infatti, sono tutto sciolato, mi ha fregato. E invece io stanotte mi sono fatto l'iniezione, ho detto così almeno dormo tranquillo, invece sono stato tutta la notte senza dormire, e ha fatto effetto stamattina. Mi diceva già, stavo male. Alle 4, alle 5 ho iniziato a suonare, io c'ho Filippo che si dorme sotto di me, lo sentivo tremandosi, che ha detto, ma cosa c'è Filippo freddo? Tremandosi, no, non ce la facevo più, avevo paura dei tuoni, dei fulmini, ho tutto coccolato, fatto, poi si è calmato, ma a casa ha preso sonno alle 6 di mezzanotte. Poverino, mi prunghi su gatto dell'agguato stamane. Di solito ci fa casino, stamattina era diventata cuccia. No, il mio, cuccia non cuccia, paura. Sportelloni chiusi, tutto, lui sente i tuoni. Non era così quando era più piccolo. Adesso da grande, minchia, cazzo, gli era bigliolona, tutto l'inverno, un picco gatto. Lo so, cra. Hanno paura, hanno gli animali. Ma si trema come una foglia, cazzo, mamma mia. Ci trema, poi viene l'affanno. Cazzo, usci, cazzo, avevo un masciuto che venga anche infarto, cazzo. Lo so, perché ha paura. Meno male che non fanno fuochi da tesi, no. Non è come in città che ogni addosso pom pom pum, sennò povero cane. Ieri sera qua vicino a casa erano con i spari, sai, stava sempre abbaiando, abbaia ma non ne ha paura, nemmeno dei tuoni non ha paura. Prima mi portava, quando lo portavo giù mi portava subito a casa quando c'era temporale, adesso non lo fa più. Il mio invece prima non temeva, adesso era grande, sta andando per 11 anni, sta diventando, mamma mia, casino, vai a rottura di palle. Vabbè, pazienza. E da grandi diventano come bambini. E così è come sono le persone. Da grandi diventiamo, ritorniamo bambini. Aiuto. Purtroppo. Beh, si hanno, lui, ieri quando c'era temporale, si è alzato sul letto e si è bucato. E c'ha la copertina sul letto, c'è quel cartolino. E non c'è mosso più. Il mio non salta più sul letto. Cazzo, salta sul letto e si muncia nei ranchi. No. Ora lo prendo io e metterlo nel letto. Capito? Cosa vi dica? Non so. Allora, pazienza. Beh, riprendete tanto. Io già sono qua, io non ne ho molta voglia, sono andato a salutarvi. Semmai se ci siete ci sentiamo dopo. Sì, allora è qua, non c'è problema. E se cosa c'è altro di cervicale, basta che prendi un antidolorifico. Sì, l'ho già preso. Ho preso un Brufen, ma pranzo, adesso ne prenderò un altro stanotte. Un po' migliorato comunque, ma oggi c'avevo vertigini. Sono stomaco fumando, non fumare io, guarda, io fumo con raffreddore. Non fumare io proprio, mi nauseava la sigaretta, sono già un paio di giorni che non ne fumo. Vabbè, tutto salute, comunque. Se mi passano le vertigini, c'è un sacco di cose da fare. Vabbè, pazienza. Dai, ci aggiorniamo dopo. Luca Frippa è entrato, non l'avete sentito? No, per niente. Vabbè. Sarà sempre Fendi. Dai, d'accordo, già, ci aggiorniamo, ci sentiamo dopo, ok? Sì, va bene, non c'è problema. Avanti. Brian. Antoine. Gli avranno chiamato, lui è magari in consegna. Cazzo, ma proprio in consegna. Minchia, ormai devo scendere a prendermi la bomba di riserva. Ma io ne ho due. C'ho la cucina esterna nel terrazzo e la cucina interna. Quando finisce una c'è l'altra, non ne ho mai problemi. No, prima dovevo usare il fornellino, c'avevo quel fornellino da campeggio, quando succedeva tutto male che andava, una pasta se la cucinava. No, io anche io ho due di cucine, no? C'ho anche quella del carrello, ma c'ho due bombe, però. Anzi, probabilmente la giudice c'è anche quella del riscaldamento. Però la tengo sempre di scorta, capito? Pure c'è tutto l'impianto fuori, non c'ho ben niente dentro casa, non c'ho niente, le bombole sono tutte fuori, sono tutte dietro, capito? E una ce n'è collegata alla cucina interna, una ce n'è collegata alla cucina esterna, l'altra è di scorta per la cucina interna e l'altra è per il gas, quindi le prendo tutte da Antonio, adesso una è finita, ho collegato l'altra, però devo prendermi quella di scorta, capito? Sempre caricarmela in macchina. E a me me lo voleva fare Pistoluzzi, voleva bucare il muro e farmelo nel terrazzo, però ho preferito mettere una cucina senza sfasciare nulla. C'ho la cucina, c'ho anche il forno in più, se devo cucinare qualcosa in più la posso cucinare, quindi ho preferito prendere una cucina e fatto il placcaggio lì dove c'è la cucina e via. Sì, hai fatto bene. Beh, ti sfrutti quel giorno in quella maniera, va bene così. No, io c'ho proprio un'altra stanza grande, 6x4. Ho detto, pure vabbè, ti ripeto, l'impianto mio è diverso, perché la casa è nuova, è fatto gli impianti di queste belle case così, sono esterne. C'è tutto un impianto esterno, gas esterno, tutto esterno, bombo interno non ce n'è più. Assolutamente no. Entra tutto sotto traccia, i tubi, eccetera. Va bene. Rimango in ascolto, aspetta che rientri Antonio, ma erano chiamati. E boh, vediamo se c'è Luca Pippa. Luca, ci sei, starà facendo esperimenti. Sempre facendi, cazzo, esperimenti. Sempre facendi. No, quello dei microfoni mi è piaciuto, esce bene. Aspetta, non fa uscire veramente bene. Comunque io mi ricordo lo faceva già Pinangelo quella cosa lì, non è una cosa nuova. Sì, basta un mixer da niente, ci attacchi qualsiasi microfono e il mixer ti fa la modulazione che vuoi, io non ho più bisogno. Io uso sempre i 60, i microfoni solo della radio, Icom 60, che è un mondo di Aesio. Lui vabbè ha fatto gli abbinamenti con quello da studio, ce l'ho anche io, ma non c'ho mix, non mi interessa mettere molta cosa in mezzo ai piedi, però già esce bene, zappa zappa, va bene, dai, ci aggiorniamo dopo. E via, a dopo. Ciao Claudio, ciao già. E beh, ciao. E te se va a tende. E stavo leggendo la radio rivista, stavo leggendo. Oh iaia, allora va giù sonno però. C'è un rumore sottofondo, Natali. Ah, ehi, c'era la radio in 40 metri, adesso ho abbassato il volume, ecco perché c'era sottofondo. Vabbè. Mi è Antonio Bombolo. Antonio Bombolo. E allora, fa posto. E tutto a posto, è da buoni a posto. Ai ai ai. Come va? Ça va, ça va. Ok. Hai sentito fini e via. Che rottura di cuglione. Mezz'ora. Cazzo pure alla fine. Io dico che... Cazzo che sia lavoro, a me ci passi la giornata, non c'è nulla, non c'è niente qua. Quindi a dire con Putin. Ehi, Casu, beh, mi sei qua. Cioè, sabato, cioè, cosa, sabato cosa abbiamo fatto? Anni fa, perché io non c'ero, stavo facendo il concerto di Renga. Quattro bombole, ma con tanto di leva, ma roba da matti, però le spese sono tante. Isso sì. E purtroppo c'è caldo, la gente è in ferie magari, e quindi consumano di manco. Sono tutti a mangiare bumatti sicuramente, roba così, roba fresca. E infatti cucinano i bogura, ienti, un disugaglio. Ora rimane proprio un bel di fame, allora se la mangi mangiato, c'è presente quelle... Quelle pizze che fanno lo spin? Quelle a trancio così. Ma ne ho mangiato una intera, ma abbiamo la fame. Hai fatto bene. Lo dovrei due, hai fatto tu. Sì, mica può mangiare una intera. Vabbè. Si può mangiare, io manco mezza me ne mangio. A chi i argomenti mangio appena appena subito non ne ho più voglia, perché non mangio più come mangiavo prima. E io me la giubbata. E tu sì, io lo grido. Se non te la mangi tu, ti sei giovane e sano, Dio ti mantenga. Caffa, un trancio di ghisi, mica mannome. Un taglio di ghisi, taglio il borso, l'usi il sugo, taglio il borso, la mozzarella, buona. La base è cominciata da affittà, in quattro parti, cazzo tutto mangio mangiato. Non lo so, molte volte ho questa fame, ho fame nervosa, non lo so. E può anche darsi, Antu, che c'è fame nervosa. Oppure fame fame. Però non ti tocco nulla, a queste ore io non tocco niente. Fame di cuocone. Mia è du subito. Allora, c'è una ferina così, c'è la fame da cuocone. Cuocone due. Non so più che cuocone. Sai come ha fatto acqua ieri, un po'. Non mi sei andato. Ah no, oggi è giovedì, domani. Tomorrow. Mi stavo leggendo la radio rivista, due me ne ho letto. C'avevo quella del mese scorso e questa di questo mese. Ah, io prima della patente. Ma che? Ma perché stanno mandando la radio rivista? Te credo che me la stanno mandando. Se sono succioari, per forza me la mandano. Bene. Dai. Ah, Marco, te ne buchi da mezzo alle balle un po' di niente. Quando viene, me la faccia in culo, mi ci metti. Ciao. Attento il libretto. È rimasto fatto a me di provare in Natalia. Ah no. Adesso un cazzo di Galavreggio. Adesso ci divertiamo. E io ho detto, ma poco a divertirsi. Come? Perché ha poco a divertirsi lì. Come sta la bucarne subito lo blocchetto di verbale. Che come fai a verbale? Guardi che non è una macchina di vietro di sosta. Guardi, c'ho il documento che dice che posso sostare, guardi. Oh, per bacco! Hai visto? Dalla entrata, dalla porta, gli usci della bacona girando i coglioni. Sarebbe bello fare così. Ti giuro, Natalia stava già scrivendo. Adesso già ci divertiamo. Dai signor, veramente che ci vorrà prima. Su dove vuoi andare? Ma dove è entrato? Dalla finestra vuole uscire o dalla porta principale? Non faccia lo stupido, no, non faccia lo stupido, io buca, esci mi ne ha messo le coglioni, vai. Questa è la licenza e questa è la patente, io fuori alle balle. Fuori, vai, e prendi le scale perché neanche l'ascensore ti faccio prendere, vai, fai da piedi. Ma tu me. Ma fuori di merda ha fatto il giorno, cazzo, me lo ricordo, per carità. Ci poteva avvisare. E tu devo a te avvisare. Ah? Sei tu che ti devi informare. Ah, se non conosci altro, vabbè che era mai, no? Non so abbiamo a vedere manco l'italiano, ma vedeva sempre un calabrese. Imbecille che. Ma c'è il culo, mette il buono, l'aveva detto, ma. Anche Natalino se la toglierà con la soddisfazione. E andò bene, e va, gira a me a balle, vai, ci devi burro dalla Ianna. Perché bisogna trattarli così a questi. Ma non bisogna avere mezza parola. No, lo puoi fare a trattarli come stai dicendo tu, che oltraggio. Oltraggio di cosa? A casa mia? Oltraggio di cosa? Alla patente, che cosa? Vai, girami la balla, vai, che oltraggio? Oltraggio non esiste più, me. Informati dalle cose. Allora di divasate, ti ti buono, 4 anni li faccio in culo. Ma vero però me? Ehi, ma non c'è bisogno di parlare male, Antù. Quando tu sei in regola e viene, gli fai vedere i documenti che gli fa vedere, si accomodi fuori per cortesia. Non è gradito qua. Molto ci vuole. Senza parlargli male né niente. Anche per non essere scurrili, mi parlando. Io non le avevo preso a parolacce, ma comunque qualche parola brutta gliel'ho detto. La viene sempre con me, sempre con me. Con i 2 mesi erano a casa, a casa, a casa, a casa. A te mi sono rotto le palle, capito? Cosa pensa? Sono un tonto, non riesco a prendere la patente. Io non ho tempo, io lavoro. Queste sono le radio, le vuole sequestrare, le sequestra, non sequestriamo niente. Le facciamo un verbale di controllo, e che allora fai il verbale di controllo? Ma ti sto parlando degli anni 90, sto parlando di adesso. Nel 92 sono diventato radioamatore, poi mi sono deciso, sono andato e non ho detto niente a nessuno. Hanno sotto radio, vieni, ti esco a radio, sì, salga, potevo dirle, non ci salga neanche, sto scendendo io, guarda. Ho detto salga, e c'era tutta la roba come avevano visto la prima volta, no? Io avevo già tutto, ho arrivato 20 anni di biratta, HF, VHF, avevo 9,40, volte 50, avevo già, mi pare, il 430 o il 440, avevo la linea Drake, avevo di tutto e di più di adesso. E lì l'imbecille del Garavesi, adesso ci divertiamo, siamo matti, e tu ci diverta che poi mi diverto io. Come? Ci diverta che poi mi diverto io. Cosa vuol dire? Niente. Nel frattempo ho preso i documenti, entro il cassetto, ed ho cominciato a bugare il blocchetto per farlo verbale. Tanto 6 milioni c'era allora, 6 milioni di verbale c'era, quindi. Ma io stavo solo vivendo. Lei lo sa qua, sì, sono tutto io. Aspetti però, non venite a scrivere, aspetti un attimino. Prima vediamo alcune cose, e cosa dobbiamo vedere? Questa. Oh per bacco, ce lo poteva dire prima, glielo sto dicendo adesso, ha visto? Adesso lì, da dove è entrato? Dalla porta o vuole uscire dalla finestra? No, da dove siamo entrati? Alla faccia la cortina, se è come non c'è neanche più qua a rompere le palle. Così di lei. È fatto, vai, già me la bella cazzo, ti puoi divertirti di voi, adesso non ti diverti più. Prego, arrivederci, grazie. Ehi, allora, l'ho fatto apposta, ho capito, per dimostrarle che non è nessuno lui, forse l'attacchendi. Sì, ma lì c'è la speciale, devi avere l'ordinaria, guardi, come speciale io sto usando questa radio e questa radio, VHF e VHF. A posto? Sì, e queste le posso detenere perché sono SWPL e poi sono già prenotato per l'ordinaria. Vuole vedere la prenotazione? Ecco, questa è la prenotazione per l'ordinaria, quindi. Va bene, però non colleghi, no, non ce n'è i microfoni collegati, io li appronto, freddo mi buttia, perché con la patente speciale W0 dovevi usare le V e le UHF e basta. Le HF non le potevi usare allora, adesso è tutto unificato. Adesso era attacchendi, ti ascolti, belli capelli, le posso tenere in radio? Sì, allora le sono accese, no, ci sono cavi attaccati, no, ci sono i cavi attaccati, no, allora vado già io, esci mi ne detto da guru. Hai fatto bene, hai fatto. Ma fai di tagliente, vabbè. Ma poi parto anche sempre da quel principio, ma se uno non ti rompendi le balle, perché devi andare a rompere le scatole? Io parto sempre da quel principio lì. Perché li chiamano, non ci vengono se non li chiamano, futti. Li chiamano, e in quel periodo io rompevo le palle a un DJ, capito? E quindi me li mandavano, ma ci sono di male, però. Da lì non vi sono mai più giunti, nessuno a rompermi le balle, ho sempre fatto quello che ho voluto io. Riprendi Natali che torno subito. No, ti grido. certo, come se mi dici di disoccupazzato, questo subito la domanda per un nominativo e via col tango. Poi che mandino, che mandino, fallo entrare tu, fai come taglio fattivo, metti tutto sopra il tavolo e tutta questa roba cos'è? E me l'hanno regalata, cosa faccio? La butto fuori. Guardi, però assieme alle radio mi hanno regalato anche questa, anzi questa non me l'hanno regalata, me l'ho sudata, ci sono problemi, io la via di te curava come. No, io non riparlo mai, non sono così, cazzo, irruento, a meno che non sia adirato. Se mi trovano adirato da mattina presto, è meglio che non vi venga. Sono andati 4 volte non venuti da me, capito? 4 volte. 3 volte dove ancora non avevo ricevuto la patente. L'ultima volta con la ricevuto la patente non gli ho detto niente. Ed era già pronto. Qua c'è molto da scrivere, scriva allora, però stia attento scrivendomi, scriva anche questa. Io pago già via di vai, che non c'ho tempo da perdere, che devo trasmettere io. Sì. Ehi, tanto adesso ti rispondono subito, via email ti mandano tutto e quindi non c'è problema. C'ho già pronte tutte le domande da fare. Come arriva uno spedisco l'altro. E adesso si esce tutto via mele, però cioè, ma quando l'ho presa io negli anni 90 non era così, tiravano la provvisoria per 3 mesi, nominativo provvisorio, poi ti arrivava quello definitivo. In quei 3 mesi loro ti seguivano e vedevano il tuo operato, capito? Invece adesso è, non era futibile nulla, passatoci, ecco, questa è la ricetta, la parte per arrangiati, non ce ne frega più niente, prima era diverso Natalia. Prima devi stare molto molto attento perché c'era il rischio che ti sospendevano la licenza da patente. Capito? Sentito Gianni, riprendi Gianni e arrivo subito. Sì, dai, ci sono da poco fa, mi stavo lasciando dire. No, già si può risolvere la cosa anche, come ha detto Natalino, presenti i documenti, se sei a posto, non c'è niente da temere. Cava cava. Ho attaccato Luis adesso, voglio sapere come sta andando, anche se va meglio dell'altro o piglio. Molto, molto meglio. A proposito di Luis già, ma ne ho visto uno in vendita a Sassari, 230 euro. È il mio, è. Il tuo, è? Sì, io lo sto vendendo. Ah. Sassari, YouTube, ha detto che va a Ruiz a Sassari. Poi c'è stato Antonello Barracuda, invece no, perché se l'aveva già venduto, mi pare. No, no, quello lì è il mio, quello che sto vendendo io. Perché ho intenzione, vabbè, di mettere in un'altra radio al posto di questo, anche se mi piace molto, però volevo qualcosa di più performante. Vabbè, te l'ho detto, se non hai fretta, aspetta, aggiorni qualche notizia, se ti può interessare si fa, se no fa niente. Oi, va meglio comunque come segnale con Royce. Va meglio, questo qui è, vabbè, ormai non è attaccato, è normale, è lo stesso omologato anche questo, però esce con 4 watt. Ha già mezzo gabbizzato. Questo esce con 4. Certo, ma fa poco, un gatto 9 sta arrivando adesso. E guarda così, 1, 2, 3, 4, 5. Oh cazzo, più di 9,20 c'è adesso. Già va bene, dai. Sì, ma più o meno è come l'altro, là. Sì, no, è meglio. Meglio? Vabbè, comunque questo qua è quello che sto vendendo, là. L'ho attaccato per vedere se va sempre bene, ma vedo che va bene, è tranquillo. Questo altro è altro con 4 watt, il gas. Sì, un po' di meno, però già va bene. Quanto altro? E prima eri 9,25 più, adesso sei 9,15, ma già va bene. Oh, e quello va bene invece 9,15? 9,30, radio 5. Ai. Senti la radio, è bella, ma se la mangia la radio, no? Ma non mica tanto. ti volevo dire, e io quanto arrivo? Perché ho preso un po' di acqua stanotte, quindi un po' così la sento tant'è. Ah, sono grassi, dopo il più del più 10 e mezzo, quindi 9,15, va. Va bene. Scappa il cronometro, avanti, ho un'altra di riprendi, va. Un attimino, mi assento, ci arrivo subito, dici che ristacchiamo, io faccio tutto in diretta, perché questo c'ha il pulsante, dove c'è scritto, ecco, e stacca. Tattarino. Adesso come ha preso acqua ieri notte un po', boh. Sant'Enna. Non lo giaccio, vai Gianni. E comunque questo è un bel apparecchio, c'ha che tipo il gas, c'ha un buon ascolto come colonnina, si sente molto bene, stereofonico. No, già l'ho avuto. Questo è uno spettacolo. Io veramente non mi ricordavo che fosse così il garage. Infatti io uso molto spesso il garage anche ascoltarvi. Poi magari commuto, perché ho tutti sotto commutazione. Cioè il commutatore a 4 vie della T250. Adesso sono a 10 watt. E ascolto molto con questo e parlo molto con questo, perché trovo uno spettacolo. Veramente c'è una ricezione da farlo. Dai, arrivo subito. Natalino si è perso e non sa tornare. Antoine! Avanti! Che invece sentisci poco, Antoine? Poco, cazzo va la mamma, cazzo, no, che da tagliare a fette. Ma non stiamo vendendo nulla. Vabbè, ma quando uno la bombola la consuma è costretto a prenderla, non è che magari ancora non ci sono molti, c'è anche molta concorrenza, bisogna dire quello, quindi uno guarda dove costa meno, capito, e cerca anche queste cose qua. Un bel mondezza, e un bel trofale ci sono pure. Perché mollezza, ci sono quelli che la vendono meno, la bombola, tipo quelli che cassa dell'Edda. Lo bello che ci non paga un cazzo. E poi sono bombole che sono riempite a buttano, costa un po' di meno. Noi no, noi usiamo la miscela e il profano. Per quello che c'è tanta pressione, c'è un motivo, ci sarà un motivo, Il tubo neghisi, so mosci mosci, so. Ah, così, come il gas di città. Già, ma è sempre un motivo. Ma hai visto quanta potenza c'ha? Cioè, le nostre bombole. Ci sarà un motivo. Ma sai che mi stanno chiamando? Cappagatta, vabbè, uno che non lo sa, magari sa come guarda il prezzo e magari gli va bene anche la fiamma muscia. Va bene, la grande muscia Lucia che si deve andare. Claudio. Comunque mi ero spostato io. E come mai ci ha abbandonato? Mi ero spostato perché mi avevano suonato alla porta. Ah, pensavo di frequenza. Ehi. Quindi Natali, pronti siamo per l'esame, tu sei già con la testa là, vero? Sì, con la testa là. Studiare bisogna, poche difficili. Non è tanto facile. No? Natali, volere e potere. Sì, già lo so. Io certe cose le sapevo già da prima, per me è un ripasso, là. Ma io ho misurato la glicemia. Se tu le cose le sai, passi per forza, non ve ne discussione. È come la patente della macchina. Se fai bene l'esame passi per forza, no, non ce ne discussione che valgano. Speriamo che sia così. Beh, le domande sono quelle, Natali. Non è che siamo a cose, cioè, non è che siamo a girarci in tondo, no? Cioè, se ti faccio una domanda, alla patente, se mi rispondi bene, deve essere per forza così. Non può essere né una cosa né un'altra cosa, deve essere per forza così la domanda. E così è quello, non è che ci abbia la cosa. Se tu lo sai, passi al 100%. posso parlare qua, là? Non puoi parlare. No, se tu puoi venire. Oh, e così e basta, punto. Se io ti faccio una domanda della patente, deve essere così. Non può essere né ba né bo, non diciamo cose che non so. Se io dico, ti faccio una domanda ben specifica, e tu mi sai rispondere, e quella e basta. Finito. Sono quelle le cose natali. Va bene, dai ragazzi, io chiudo. Ci sentiamo, ciao ciao. Ciao ciao, buon tutto Antu. Ciao Antu, finito hai? Eh sì, non puoi tempo. Va. Buon rientro allora, vai, avanti Natali. Cos'è già? No, ho detto buon rientro Antonio. Ho detto avanti Natali. C'era la mia, intendi, vira chi c'hai, si buono in mezzo. Ho sentito, fate il suina, adesso stai mangiando, ho capito, no, abbiamo capito il concetto, meno male che ci sei tu che fai la segretaria. No, chi vieni a rompimi i cazzoli. Dai, almeno c'è qualcuno che ti ricorda le cose, e se non te lo ricordi tu c'è qualcuno che te lo ricorda. Sì, non fai bisogno di dare, veramente. Vieni, non rompere. Cosa vuoi? Questo è tuo. Vabbè, là, io chiudo, tanto ti sto mangiando, non c'è nessuno, ci sentiamo, ciao ciao. Ciao, già, ci sentiamo alle prossime.